In un articolo sul Corriere della Sera si stima in 350 miliardi di euro l'impatto dell'abolizione della legge, è così? Sì, si parla di cifre del genere che naturalmente sul piano, diciamo, della sostenibilità nei confronti di quelli che sono i vincoli europei e soprattutto gli obiettivi di medio termine già stabiliti per i prossimi due anni sembrano qualcosa di assolutamente insostenibile per quanto riguarda il rispetto di queste regole, ma proprio perché se andiamo a vedere quelle che sono le previsioni dell'Autumn Forecast 2017, quindi le previsioni autunnali per il 2018 effettuate a novembre, vediamo che ad esempio un semplice aggravamento del disavanzo strutturale, che è quella grandezza di cui abbiamo parlato molte volte, che in qualche modo corregge il disavanzo effettivamente registrato dallo Stato per la differenza tra PIL attuale e PIL potenziale, quindi è il parametro rispetto a cui viene valutata, diciamo, la posizione fiscale dei paesi. Ecco, questo parametro viene considerato in leggero aggravamento quando passa tra il 2018 e il 2019 da un 2% ad un 2.4%, cosa che, se leggiamo le previsioni autunnali della Commissione Europea, viene registrata con una certa preoccupazione da parte di Bruxelles. Quindi possiamo soltanto immaginare cosa accadrebbe se andiamo ad aumentare il disavanzo di qualcosa che va nell'ordine di centinaia di miliardi di euro, anche spalmati in diversi anni. C'è da dire che, oltre a questo, naturalmente, sebbene è chiaro che alcune delle misure di cui poi parliamo e parleremo, che sono proposte in questi mesi di campagna elettorale, possano aumentare il prodotto interno lordo, sono proprio queste previsioni che ci fanno vedere come persino negli scenari più ottimistici in realtà alla fine del 2018 si dovrebbe registrare una modesta crescita dell'1,3%, ma poi a partire dalla fine del 2018 tutte le previsioni che Bruxelles ha in mano ci parlano di un rallentamento, se non di una diminuzione proprio del PIL previsto, per tanti fattori, tra cui il peggioramento della competitività estera che viene previsto proprio perché se il quantitative easing andrà a ridursi e i tassi torneranno ad aumentare, è probabile che il tasso di cambio euro-dollaro porti con sé una crescita del prezzo dell'euro nei confronti del dollaro, cosa che peraltro sta già avvenendo. E questo vuol dire che se il PIL peggiora nei prossimi anni, naturalmente lo spazio fiscale a disposizione è ancora minore, perché il rapporto debito-PIL, soprattutto più che quello deficit-PIL, che comunque è un parametro fondamentale che la Commissione Europea osserva per fissare quelli che sono i margini di flessibilità ogni anno, si aggraverà senz'altro. Soprattutto nonostante negli scorsi anni Padoan sia riuscito a scorporare gran parte di quelle che sono state le spese per il sistema bancario, ad esempio, effettuate dal governo, comunque queste misure non sono rientrate nel deficit computato secondo i criteri di Maastricht, ma hanno aumentato il rapporto debito-PIL, con il quale è un po' come se l'Europa chiedesse il conto di quelle misure che, volenti o nolenti, che si dica o non si dica, spesso non viene ammesso nemmeno appunto dagli esponenti del governo uscente, sono state parte della spiegazione per cui il PIL italiano è stato in crescita, in moderata crescita nello scorso anno. Per cui sia l'abolizione della Fornero, così come anche l'aumento delle pensioni minime a 1000 euro, oppure varie forme di reddito di cittadinanza o reddito di dignità, che dir si voglia, o come nella denominazione di Berlusconi, comunque implicano la necessità di un forte negoziato, se non di uno scontro con l'Europa, ed è impensabile che qualcuna di queste misure possa essere approvata realmente senza che qualunque sia il governo prossimamente in carica faccia uno scontro con le istituzioni europee. Ne hai citato anche il reddito di cittadinanza, altri paesi europei hanno questa forma di sostegno che, come dire, andava a costituire quella che è la reale flessibilità, che in Italia si traduce con precarietà, però spesso all'estero se io perdo il lavoro ho un paracadute che in Italia invece non hanno. È proprio impensabile che possa esistere una forma di questo genere? Vabbè, una forma di questo genere naturalmente sarebbe assolutamente necessaria, anche se ci sono varie tipologie di rete di protezione sociale che possono essere pensate rispetto a quelle che vengono anche proposte, di cui si sente parlare in campagna elettorale. Ad esempio, una delle cose che si rilevano sia nella proposta del Movimento 5 Stelle che in quella di Berlusconi, che poi dovrà ancora essere realmente articolata, è che si parla di un sostegno al reddito in termini puramente nominali, perché c'è l'idea che una volta che i maggiori consumi innescati dai sussidi pagati in questo modo possono determinare più assunzioni nel settore privato e che queste assunzioni nel corso del tempo riducano la quantità di persone che accedono a questi programmi. Diversamente in altri, ad esempio in Germania, ci sono programmi di riattivazione al lavoro che direttamente impiegano le persone che sono in questa rete di protezione in piccoli lavori, quelli che in Italia avremmo chiamato qualche anno fa lavori socialmente utili, in modo tale che si possano riavvicinare al lavoro. Queste misure sarebbero assolutamente necessarie, anche perché l'Italia è gravata da uno dei più alti numeri in proporzione alla forza lavoro totale di persone che si dichiarano inattive e quindi che sono effettivamente a tutti gli effetti disoccupati, ma che non cercano più lavoro da tempo, e tra questi sono tantissimi i disoccupati di lungo periodo, e perciò una misura che riavvicini le persone al lavoro e che consenta anche di avere uno standard di vita minimo sarebbe assolutamente necessaria. Il problema in questo caso è proprio di natura negoziale, nel senso che molti di questi paesi, la Germania è uno di questi, ma in generale tutti quelli del bacino centro-nord europeo, riescono a farlo anche grazie alla diversa struttura produttiva e diversi esiti economici sono realizzati in questi anni. La Germania è riuscita a garantire comunque uno standard di vita minimo a gran parte della popolazione grazie alla moderazione salariale che è avvenuta all'interno delle imprese, che ha comunque inciso sulla possibilità di fornire parte dei salari che le imprese non pagavano più in prestazioni di welfare, ma soprattutto anche grazie alla sua performance in termini di commercio estero. Per l'Italia un governo che voglia davvero mettere in piedi questa manovra deve cercare di farlo anche in disavanzo, proprio perché l'aumento chiaramente della pressione fiscale su alcune fasce della popolazione a più alto reddito è naturalmente auspicabile, ma non è pensabile che tutto si possa finanziare esclusivamente attraverso una ricomposizione della spesa pubblica o una ricomposizione delle tasse, anche perché uno dei grandissimi problemi dell'Italia è quello dell'evasione dei grandi capitali. La lotta a questa evasione però non può fornire una base stabile per finanziare dei programmi che sarebbero di immediata necessità, e quindi sebbene i governi degli anni passati, già negli ultimi 10 anni sostanzialmente, abbiano promesso di poterlo fare grazie alla lotta all'evasione fiscale, ma poi si sono resi conto di non poterlo fare perché tutto questo gettito non era disponibile, in un certo senso non si può più aspettare e c'era necessità davvero di implementare programmi di questo tipo. Ecco, veniamo forse alla misura meno costosa, quella proposta da Pietro Grasso sull'abolizione delle tasse universitarie. Sta facendo discutere il fatto che non è una misura di sinistra perché va a favorire anche chi potrebbe permettersi di pagare le tasse universitarie, cioè quelli più ricchi. Quanto a sostenibilità? In termini di sostenibilità questo significa che dovrebbe esserci un aggravio dei costi in termini di fiscalità generale, ed è, diciamo, a bocce ferme difficile da valutare, nel senso che dipenderà molto dal grado di progressività con cui eventualmente, diciamo, viene proposto di far finanziare il sistema universitario alla fiscalità generale, perché naturalmente se pensiamo che il costo debba gravare sull'IRPEF, nel caso in cui il grado di progressività di questa misura non è quello che ci si aspetta e quindi gran parte del carico fiscale grava su classi medie o comunque sia non su le classi che hanno una propensione al consumo minore, c'è il rischio che poi il prodotto interno lordo possa diminuire più di quanto ci si aspetti e che di conseguenza, per il solito meccanismo dei rapporti deficit-PIL sulla base di cui siamo valutati, questo possa innescare un'ulteriore stretta che poi viene praticata dal governo negli anni successivi. Viceversa, se la misura è realmente progressiva, nel senso che il target dell'aggravio è individuato in maniera progressiva e quindi si rivolge alle classi a maggior reddito, naturalmente l'effetto può anche essere positivo. C'è da immaginare naturalmente che le proposte che siano state realizzate in questa fase siano soprattutto di carattere indicativo, ma naturalmente rispetto al tema dell'università si potrebbe, si dovrebbe anche includere nei costi da rimodulare tutto ciò che riguarda l'edilizia universitaria e la concessione delle borse di studio, che al momento sono due realtà che gravano molto sul carico di costi che le famiglie devono sobbarcarsi per il sostentamento degli studenti. In generale, comunque, è una misura che, se applicata in maniera progressiva, naturalmente può aiutare a liberare anche del potere d'acquisto delle famiglie a minor reddito, che può dare una spinta positiva anche alle finanze pubbliche negli anni successivi. Ecco, un'ultima battuta su invece l'abolizione del canone. Sì, l'abolizione del canone è una di quelle proposte che davvero risultano essere quasi ininfluenti in termini di scostamento delle finanze pubbliche, in parte perché, come anche dicevi tu in apertura, è curioso che sia in qualche modo lo stesso rappresentante di un governo che ha introdotto il canone in bolletta, nella bolletta energetica, a proporne adesso l'abolizione, ma poi anche perché in qualche modo è un costo che andrebbero a versare i contribuenti in altre forme, poi non ha alcun impatto sostanziale in termini di come dire di welfare e di benessere delle classi che non si trovano, diciamo, in scaglioni di reddito molto elevati.